Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Oggi no, comincio io. Ma tu mi interrompi. Tu devi avere anche oltretutto così un po' di buon senso, perché hai avuto l'unico desiderio che avevi, è quello di smettere di interrompere. E quindi cosa stai facendo? Di cosa stai parlando? Hai detto che non vuoi più interrompere la gente. Ma io stavo dicendo, l'hai detto la puntata scorsa. Ma chi se lo io adesso dico cosa oggi parliamo di scorsa. E tu subito oggi addosso. Perché tu vuoi parlare delle solite cose noiose tue. No, dai, no, oggi parliamo di musica bambina. Sei preparato su questo, Kappa? A me piace, eh. Io adoro suonare e cantare con i bambini. Però qui non l'hai mai fatto. Vabbè, perché ci sei tu che sei fissato appunto con l'attualità, la politica, le cose noiose. Se fissato. Il programma l'avessi fatto da solo sarebbe stata una jam session continua. Sì, ukulele, kazoo, xilofoni, fischietti, uno spettacolo. Sì, però si dà il caso che questa è una radio news and talk. Sono quasi le 5, i quadri dirigenziali stanno salendo in macchina per tornare alla loro villetta fuori città. Si sintonizzano su Radio 24 e si aspettano di sentire qualcosa di intelligente, non un concerto di bambini. Vabbè, allora saranno contentissimi i quadri dirigenziali di sentire quello che ha da dire il dottor Drago su argomenti essenziali come la musica bambina. Perché devi sputare nel piatto dove mangi? La nostra trasmissione. Allora, sì. La musica bambina non è un argomento da poco, eh. Ci sono di mezzo migliaia di posti di lavoro. Ecco, subito virarla sui posti di lavoro. Pare che i discografici italiani sono aggrappati come dei naufraghi a due compilation bambine di musica bambina. Addirittura. La vita di intere famiglie italiane dipende dalla compilation di Io canto a cura di Gerry Scotti e quella di Ti lascio una canzone a cura della bambina Clerici. A cura di? Sì. Ma non c'è la compilation loro di Kid Factor a cura di Capo Drago? No, è di Morgan, no, l'abbiamo fatta perché... però la faremo, eh. Aspettiamo che Morgan si abitui al suo nuovo ruolo di assessore comunale, poi già torniamo alla carica, glielo chiediamo, vedrai che lo facciamo. Auguri e saluti al bambino Morgan, nuovo assessore all'ebbrezza al comune di Salemi. Sì, sul sito del comune è indicato come assessore alla creatività, ma sui giornali c'era scritto all'ebbrezza. Assessore all'ebbrezza, l'ho letto. Tito, giusto, Tito, l'ho letto sui giornali. Vabbè, dai, allora, le due compilation di musica bambina stanno vendendo un sacco di copie e questo fa riflettere, perché le canzoni originali, quelle di Mine e di Celentano, non piacciono più. Adesso la gente vuole dei bambini che fanno finta di essere adulti. Sì, vabbè, forse stai facendo il sociologo però tu, eh. Vabbè, ma è così. Perché i bambini alla fine piacciono, punto e basta. Vabbè, non è che devi stare a pensare. È troppo semplice però, sempre scusa, così. Scusa, Drago, guarda i tre tenorini della Clerici. Oddio, sì. Loro cantano davanti alla regina di Giordania. Vabbè, dai. Fanno date a Las Vegas, New York, in giro per il mondo. Sono impegnati da qui al 2013. Cosa c'è da dire su di loro? I tre tenorini stanno facendo un'ottima carriera. Sì, tenorini, hanno tempo a diventare uomini prima di finire la tournée 2013. Ah, ce l'ho pensato. Sì. Se poi gli cambia la voce, non sono più tenorini. E come fanno? Non lo so, un bel problema, potrebbero... Cosa potrebbero fare? Scusa, non lo so, certo che è una carriera... Però dai, scusa, sono tre italiani, anche abbastanza pittoreschi. Vabbè, a New York, sì. Pittoreschi, c'è cioè quello un po' ciccione, vabbè, così. Poverino, ma che poverino. Ma poi dimagrisce crescendo, sai ma com'è? Ma che ne sai, comunque appunto così, diventa una cosa più normale, no? E quindi possono comunque mettersi insieme e aprono un locale, una pizzeria. Ma come una pizzeria? Ma sono dei cantanti di fama internazionale. Vabbè, ma poi non sono più tenorini, quindi al massimo possono... Te li vedi, scusa, uno sta alla cassa, l'altro fa le pizze, l'altro va ai tavoli e sono lì che mentre fanno le pizze cantano, no? Pensa alla bella atmosfera, come adesso a Natale, pensa a quanti clienti, una bella serata natalizia, uno fa le pizze, lancia, chiama, vai al tre, buon Natale, oh sole mio. Sì, vabbè, sole mio, a Natale. Vabbè, sole mio, roba italiana. E buon Natale, cos'è sta roba Natale, Natale, una pizza al tre, cosa c'entra? Ho detto al tre, ho detto al tre, ho detto al tre. Ma stai zitto, vabbè. Ma sì, ma allora, uno dei tre tenori si chiama Natale e sbaglia sempre tavolo quando serve la pizza. Quindi siccome glielo dico non capisce mai, ho provato a dirlo cantando, visto che è napoletano, è usato la melodia di Sole Mio, no? Ve ne siete accorti? L'altro tenorino, quello che fa le pizze, ribadisce, no? Ho detto al tre! Natale! Al tre! politica. Chiedo asilo! E ora gli effetti collaterali della riforma Gelmini sugli insegnanti italiani. Fare versi per ogni cosa, devo! Arrivare! Voi siete qui che non vedete l'ora! Che finiscano queste 2 ore di fisica consecutive! Ma vi assicuro che sono io che non vedo l'ora! Che finiscano, voglia di un mondo! Sempre fate i versi! Sempre! Mettetevi fuori e piantatela con tutte queste scemenze! Ogni cosa che dico! E bisogna scrivere in laboratorio! Basta con queste domande sceme! Si viene a scuola per scrivere e per ascoltare e per fare quello che dicono gli insegnanti! Ma chi vi ha insegnato l'educazione? Costringe una persona a scolarsi! Lo sai una cosa? Tutto sto parlare di Napoli, di O Sole Mio, mi ha fatto venire... Cosa? Mi sento tarantolato. Ma come tarantolato? Tarantolato, ho voglia di fare il gioco dell'asino di Buridano. Il gioco dell'asino di Buridano. Vado con questo, vado con questo, vado con questo, vado con questo. Vado con questo, vado con questo, vado con questo, vado con questo. Vado con questo, vado con questo, vado con questo, vado con questo. Ma niente, con questo, vado con questo. Ma bambino di Pietro, l'onore di Pietro, ancora tarantolato. Ecco, vabbè, per forza. Vado con questo, vado con questo. Finché il bambino Bersani non si decide, è così, che poi non capisco. Però l'indeciso è Bersani. L'asino di Buridano. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado l'indeciso con questo. L'indeciso è Bersani, non di Pietro. Perché invece si è tarantolato di Pietro e non Bersani? Ma come fai a non capire? Bersani è un tipo razionale, no? Ruspante, genuino. Vabbè, invece di Pietro un raffinato metra pansè. No, vabbè, ma di Pietro è una specie di sciamano. L'asino di Buridano. Sciamano. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo. Alla fine rimane lui per morire di fame. E ora bambini, tutti a casa. Vabbè, ma non ho capito. Cos'è che non capisci? Hanno intenzione di farci passare le vacanze qua, questi qui con le macchine. Ma per forza, ormai lo sai. Scusa, rassegniamoci, guarda. Non attraverseremo mai. Ma come? Quindi sì, fidati. Tanto vale cercare di sopravvivere in questa aiuoletta qui. Ma come? Sopravvivere? Traffico. Sì, guarda, io sono un appassionato di programmi di sopravvivenza. Sì, vabbè, TV, sulla Pay TV è pieno di programmi sulla sopravvivenza. Sì, ho imparato un sacco di cose. Ma la sopravvivenza su un'isola, in un deserto. Questa è la nostra isola, ma in mezzo all'inferno. Figurati, tutto cemento. Tutto cemento. È vero, c'è anche l'erba, guarda. Vabbè, c'è l'erba. Sì, ma è quella dove piscia Tito. Vabbè, comunque c'è quella. Quindi, come? Sì, la sopravvivenza poi riesce ad adattarsi in qualunque luogo, anche in quest'isola pedonale. Con 2 legnetti facciamo il nostro fuoco. Sì. Con una pietra e altri 2 legnetti facciamo una trappola. Una capito? Trappola per cosa? Ma non lo so. Non passa niente qua. Passerà qua. Siamo gli unici esseri viventi. Ah, dai, su un po' di fiducia, un po' di ottimismo. Sì, per sopravvivere ci va ottimismo. Allora farei come prima cosa la trappola. Sì, però scusa una cosa. Scusa, non riusciamo mai a attraversare. Non andiamo mai a casa. Tu quando cazzo la guardi la televisione? Domani e mandate i legnetti per fare il fuoco a chiedoasilo@radio24.it.